No, no, ma volevo andare avanti, sì, ne avrei un'infinità, ma andremo da un'altra parte. Tra l'altro volevo dire questo, che secondo me è così, è una piccola parentesi, ma se vi capitasse mai di visitare la porzione di Marche di cui stiamo parlando, cioè l'Ascolano, è un posto sconosciuto e bellissimo, quindi secondo me vale la pena di farci un giro. Torno al libro di Pietro Neno, partendo dal suo nome, cioè tu hai un nome assolutamente inusuale, che lui adesso ci racconterà, ma che in realtà sta per Pietro Nenni, e questo secondo me dà un valore a gran parte di questa storia. Partendo dal nome, mi interessava il contesto storico e politico del tuo libro.